Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Ivano De Matteo, regista del film Villetta con ospiti al cinema da giovedì 30 gennaio 2020. Ivano, ben trovato. Ben trovati a voi, che tanto non ci sentivamo. Ogni volta che non vi sento vuol dire che non lavoro. Quindi... No, insomma, sono contento perché ora era passato 2 anni dalla vita possibile, quindi ci risentiamo con questo che magari è un tema ancora un po' più caldo rispetto anche a... proprio il tema, è un altro tema caldo dell'attuale. Ecco, presentiamolo a chi ci ascolta, come lo introdurresti? Un thriller dove bisogna scoprire chi è l'assassino, una pistola che paga, come comprare il silenzio, è un noir, anche se poi in realtà inizia come una sorta di commedia, ma per me è, come ho detto all'inizio, a parte gli scherzi, ma per me è un thriller dove non c'è bisogno di scoprire l'assassino, ma capire chi sono i colpevoli e di che cosa. Come ha avuto origine? Come è nata l'idea? All'epoca volevamo scrivere un film un po' sulla difesa personale. Avevamo questo soggetto nel cassetto da qualche anno e poi con Valentina, che è la mia compagna, la co-sceneggiatrice di tutti i nostri lavori, abbiamo deciso di ritirarlo fuori e proporre la produzione. Abbiamo detto forse adesso vogliamo raccontare un po' un film che toccasse un po' la difesa personale, ci sembrava anche il momento adatto. Oltretutto abbiamo iniziato proprio l'altro anno e poi l'abbiamo cominciato a scrivere 1 anno e mezzo fa, quindi era proprio nella piena proposta di legge, appunto, dell'uso delle armi in casa, cioè della legittima difesa, insomma, questo era. E quindi abbiamo proposto la produzione, cioè accettato, e quindi alla fine abbiamo dato vita a questo nuovo film. La sceneggiatura è firmata da tutti e due? Quella sì, come sempre filmiamo insieme, cioè abbiamo il nostro modo, insomma, di scrivere, ormai si decide il tema insieme, poi Valentina comincia la prima parte, il trattamento, la prima stesura della sceneggiatura, poi entro io a gamba tesa, dice lei, e vado insomma a collaborare. Ecco. Come hai pensato di metterlo in scena, la realizzazione, su cosa hai voluto centrarlo? Anche se non è un film, come ho detto, sulla famiglia, anche sì, come tutti i nostri precedenti, ma in qualche modo è impossibile, come dire, fuggire dalla famiglia in un film, perlomeno nel nostro tipo di film. In questo caso, oltre alla famiglia, alle famiglie, sia quella, diciamo, italiana che quella rumena, un altro punto focale era, diciamo, questa sorta di famiglia-comunità che noi abbiamo formato con 3 figure istituzionali che dovrebbero in qualche modo difenderci sia dall'aspetto fisico, dall'incolumità, dall'aspetto, come dire, religioso, ecco, quindi il prete, il poliziotto e il dottore formano quest'altra sorta di famiglia, ecco, tutti questi personaggi insieme sono gli ospiti che troveremo nella seconda parte del film, diciamo la parte più dark, più noir, dove c'è a un certo punto un accadimento e vanno a svelarsi per quello che sono, quindi senza le loro divise, senza le loro uniformi. Ecco, come mai la scelta di questi personaggi simbolo e poi di questa collocazione geografica? Per quanto riguarda la scelta, era proprio appunto quella di mostrare coloro che in qualche modo sarebbero i personaggi deputati a difendersi, a tutelarci, in realtà è esattamente l'opposto. Per quanto riguarda la scelta della collocazione geografica, abbiamo scelto il nord-est essendo comunque una zona ricca dove in qualche modo c'è questa idea di difendere proprio i possedimenti, no? Gli averi e anche la parte, diciamo, difendere la parte privata, nonché la parte oscura, la parte buia, i vizi privati, ma il film è chiaramente girato là, ma poi come possiamo ben vedere anche in alcuni fatti di cronaca molto recenti, potrebbe succedere dappertutto, anche perché è successo qualcosa di molto simile alle porte di Roma. Tanti attori e attrici in un interno, com'è stato il lavoro? Beh, diciamo, quando lavori con degli attori, uso il termine così, anche forse non appropriato, ma bravi, molto bravi, è tutto più semplice. Io dall'inizio, quando abbiamo scritto il film, abbiamo cucito addosso i nostri personaggi a degli attori che poi abbiamo contattato in seguito. Fortunatamente tutti hanno accettato e volevo degli attori che venissero, che lavorassero chiaramente col cinema, attori cinematografici, ma che avessero comunque un'impronta teatrale, perché era un film molto complesso anche a livello di velocità. Avevamo pochi giorni, si girava in pellicola, le scene erano delicate e quindi ho provato con gli attori e devo dire, una volta che siamo andati sul set è stato tutto più semplice, è scivolato via il tempo, i 26 giorni già erano pochi, ma io sinceramente non li ho proprio sentiti, quindi è stato un piacere, è sempre un piacere lavorare con gli attori bravi. Ho visto che ha un lungo percorso il film, dall'ideazione fino alla realizzazione. È cambiato qualcosa in corsa? L'hai modificato il progetto? Mai modificato, nel senso che era partito con l'idea di in imbuto, il famoso struttura imbuto. All'inizio il film si chiamava prima si chiamava Bang Bang, poi volevamo chiamarlo Esterno Giorno, Interno Notte, quando abbiamo lavorato un po' sulla forma del film, proprio come era proprio il disegno, quindi era una struttura larga che si andava a chiudere, quindi eravamo presi l'idea, era proprio l'imbuto. Sì. Quindi, da lì abbiamo cominciato a dare il peso alla parte, diciamo, giorno notte, poi in realtà il film l'abbiamo proprio, si è diviso proprio a metà, 88 minuti, di cui 47 stanno da una parte più o meno, resto stanno dall'altra, quindi insomma era proprio un film che scendeva proprio così, chirurgico. Esatto. Ivano, in quante sale? Ho saputo ieri, insomma, che usciamo in 50 sale, che per un film, diciamo, per il genere di film che già è tanto difficile uscire, quindi insomma sono contento che l'Academy tu sia distribuendo questo film dopo che l'ultimo film che avevano in sala, che era Parasite, insomma, sto in buona compagnia. E 50 sale, io mi auguro che magari con passaparola possano salire, ma io, diciamo, che fondamentalmente alla vita non chiedo di più. Ho fatto il mio film, ho fatto quello che volevo, la mia idea, il film è uscito in sala con un'ottima distribuzione, quindi ben vengono tutti quelli che verranno al cinema. È il pubblico, diciamo, del... Spero che diventi poi il pubblico del mio cinema, dei miei film, anche i giovani che poi cresceranno, e insomma cerco di creare il mio zoccolo duro. Villetta con ospiti al cinema da giovedì 30 gennaio 2020, un saluto e un ringraziamento al regista Ivano De Matteo. Ivano, un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie, un abbraccio a tutti voi, ciao. Con Maurizio Di Rienzo, curatore della 14ª edizione della rassegna di documentari Italia Doc 2020 a Roma, Casa del Cinema, dal 29 gennaio al 1 aprile 2020. Maurizio, ben trovato. Grazie, buonasera a tutti. Buongiorno. Raccontiamo cos'è questa rassegna che comincia ad avere una sua storia. Sì, è vero, sono molti anni che alla Casa del Cinema c'è questo appuntamento nell'anno, ovviamente i documentari si vedono sempre, per questo Italia Doc deve avere un suo percorso e in questo caso, mai come quest'anno, ci siamo legati a documentari molto recenti presentati negli ultimi mesi del 2019 a festival importanti e che stanno per uscire in sala, sempre a macchia di leopardo, come capita a questo tipo di produzione, qualche volta un po' più ampia ed estesa l'uscita o qualche volta meno, però hanno una loro profondità nel cosiddetto circuito alternativo. Allora, 29 gennaio, Vaccini, nuove lezioni di scienza, il mercoledì è il giorno del documentario di questo ciclo di Italia Doc, con una eccezione. La replica, comunque, dei documentari è sempre la domenica alle 17 e l'orario di inizio è quasi sempre alle 18:30, quasi sempre. Quindi è anche un orario più comodo, diciamo. Allora, Vaccini, nuove lezioni di scienza, della poliedrica editrice e regista Elisabetta Scarpi, è praticamente un'unità di luogo nella quale si succedono 9 brevi e sintetici e illuminanti pareri di immunologi, medici e filosofi sul tema veramente di grande attualità, cioè la vaccinazione sì e la vaccinazione no. Nulla di didascalico, nulla di propagandistico, di ideologico, anzi qualche cosa di ironico e di interessante, per 60 minuti davvero molto originali.

i morti della strage, ma dando voce appunto in questo caso a chi ha soccorso le persone e come quell'esperienza poi si è trasformata in un servizio nazionale che oggi conosciamo tutti molto bene. Ci è sembrato molto importante accogliere questo lavoro in catalogo per diverse ragioni, ovviamente la cui più importante è continuare insistentemente a lavorare sul discorso della memoria storica nostra in un momento dove evidentemente gli attacchi continuano a moltiplicarsi da più parti. L'altro lavoro invece che vi segnaliamo è nella sezione nuove editorie, è arrivato infatti fresco di stampa e di ristampa attraverso il crowdfunding su produzioni dal basso, il nuovo libro Figli delle Stelle, che va a comporre poi invece la collana dedicata alla casa editrice romana di Elementi Kairos, una casa editrice che in questi anni ha fatto molte cose interessanti. Una delle ultime che abbiamo rilanciato sempre in ristampa è Prossima Fermata, dedicata alla storia di Renato e con la doppia firma nelle tavole di Zero Calcare e di Retouche. Continua quindi questa collaborazione ormai a stretto giro con Elementi Kairos e questo libro va ad arricchire appunto la sezione che abbiamo dedicato a loro all'interno della parte dedicata agli editori indipendenti. Ci sono invece due grosse novità che ci tengo molto a segnalarvi, che riguardano invece quello che è la nostra sfera produttiva vera e propria, perché per chi non lo sapesse appunto OpenDDB è un catalogo digitale, è una piattaforma, è un punto di incontro, ma è un progetto che nasce in realtà all'interno della galassia di SMK Factory, che è il nostro collettivo di produzione video, che è il collettivo che ha fatto The Harvest, piuttosto che Tomorrow's Land o altri film documentari in questi anni. C'è una doppia novità su questo fronte perché da un lato siamo in imminente uscita con The Milky Way per la regia di Luigi Danife, è un film girato tutto tra le Alpi torinesi e il lato francese e il cui tema centrale è la migrazione contemporanea, in particolar modo appunto come quella rotta migratoria che decenni fa veniva usata dagli italiani che fuggivano verso la Francia, viene oggi attraversata dai ragazzi che arrivano o dal mare, quindi passando purtroppo per la Libia e per altre situazioni che conosciamo purtroppo molto bene e che impattano ovviamente con tutta la follia di ritorno delle frontiere nazionali anche all'interno del sistema europeo. Il tema del confine italo-francese è un tema molto caldo da 2 o 3 anni, dai tempi di quando è scoppiata di nuovo la bolla di Ventimiglia, e purtroppo bisogna registrare, anche se con numeri inferiori rispetto a quelli del mare, che su quel confine, soprattutto sulla parte montana, iniziano a registrarsi purtroppo anche molti ragazzi che non ce la fanno e che muoiono durante il percorso. Come parlando noi di storie di persone e dando risalto e rispetto alla vita delle persone, non ci importa un lavoro quantitativo, non importa se i numeri di chi muore in montagna siano più bassi o più alti di quelli di chi muore in mare, il problema è che rimane inaccettabile nel 2020 che ciò accada, a maggior ragione se ciò accade per la follia ormai quasi semidistopica del continuare ad avere la necessità di tracciare una linea immaginaria tra due territori e decidere arbitrariamente che qualcuno può passare quella linea e qualcuno no. Il Milky Way ha fatto un percorso di azionariato popolare, di coproduzione popolare lungo tutto il 2019, siamo stati rispetto ad altri film, compreso rispetto a The Harvest, molto più veloci nella produzione, anche perché è un film che ha molta urgenza di uscire per tante ragioni che scoprirete, e dopo questo lungo percorso di coproduzione popolare, fatto anche di appuntamenti in diverse città, di raccolte fondi online, eccetera, siamo finalmente pronti per uscire con il film finito e ci saranno 3 anteprime, una a Bologna e una a Brescia il 6 e il 7 di febbraio e poi il 10 febbraio la prima nazionale al Cinema Massimo di Torino, e da lì il film prenderà, come è stato con The Harvest e con altri nostri lavori, il suo lungo cammino, si spera, di distribuzione nazionale ed internazionale. Parallelamente a questo, avendo appunto chiuso questa fase di crowdfunding sul nostro film Milky Way, entra finalmente in fase di coproduzione Sarura, che invece è un altro film molto importante, soprattutto dal punto di vista del nostro percorso collettivo, perché è il film che ci ha riportato circa un anno fa a tornare a Tuani, il villaggio palestinese, dove non solo noi abbiamo avuto la fortuna e il piacere di girare Tomorrow's Land ormai 10 anni fa, ma dove non posso negare che abbiamo anche mosso i nostri primi passi come collettivo SMK Factory. Ed è stato molto emozionante, anche se vogliamo, tornare in quelle zone, rincontrare queste persone. La storia di Sarura tocca una vicenda più specifica, nel senso che è la storia di questo collettivo di ragazzi, tutti tra i 15 e i 20 anni, che hanno deciso di occupare una grotta già ormai da un paio d'anni, e dentro questa grotta viverci, fare le loro attività e programmare e costruire la loro resistenza quotidiana, così come fecero le madri e i padri in Tomorrow's Land. Il film appunto uscirà poi nei prossimi mesi, ancora chiaramente non abbiamo una data perché è ancora in produzione, ma su Produzioni dal Basso, se cercate appunto Sarura, trovate tutte le informazioni sia relative al progetto e anche relative a come eventualmente diventare coproduttrice o coproduttore del film. Insomma, ci auguriamo che anche questo film abbia un lungo percorso di condivisione, perché come ben sapete per noi è sempre stato molto importante, sia quando si parla di produzione sia quando si parla di distribuzione, ragionare ovviamente sul contenuto di ciò che si produce e si distribuisce, sull'importanza, il valore e l'urgenza politica di una storia che racconti, ma è altrettanto importante in questo momento storico rivendicare e fare un ragionamento politico su come si producono i film, su come si distribuiscono i film, su come si decidono di mettere in discussione certe pratiche consolidate del copyright, per esempio, proprio perché la riflessione ci porta anche a chiederci quali siano le difficoltà che il mondo della produzione cinematografica oggi vive, piuttosto che quali siano le nuove strade che può percorrere, anche perché quando poi parliamo di problematicità, solitamente è un modo più neutrale per descrivere un'altra parola che si chiama sfruttamento, perché lo sfruttamento lavorativo, mi posso assicurare che c'è anche nel mondo cinematografico e più in generale nella produzione del materiale. Per me è sempre stato molto importante ribadire questa cosa, perché appunto è importante anche ragionare su come vengono prodotti i film e su come poi vengono diffusi all'interno dei territori, delle comunità, nel tentativo di dare un proprio piccolo contributo a quello che è poi una narrazione collettiva che appartiene a tutti quanti noi. Paco, un abbraccio, alla prossima. Grazie a voi come sempre e a presto. Con Stefano Finesi dell'associazione La Farfalla sul Mirino, curatore della nona edizione della rassegna A qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema a Roma, Palazzo delle Esposizioni, dal 5 novembre 2019 al 26 maggio 2020. Stefano, ben trovato. Salve a tutti, ciao Federico. Quanti titoli? Allora, anche quest'anno abbiamo 15 titoli e anche quest'anno lo spirito è ormai, insomma, è un appuntamento consolidato con il pubblico di appassionati del cinema di Roma, e il filo rosso è l'amore per il cinema, e come sempre spaziamo dal muto fino agli anni Ottanta in modo libero e corsaro, ecco. Già il 5 novembre si parte subito con un titolo meraviglioso che è Mancia competente di Lubitsch, una commedia irresistibile di cui Lubitsch stesso dichiarò che non aveva mai fatto di meglio in quanto a stile, e se lo diceva lui, insomma, potete immaginare il livello di questa commedia. Poi abbiamo tantissimi maestri, tantissimi titoli eccezionali come sempre, da Rosso Sangue di Carà al Braccio Violento della Legge di Friedkin, da La tua bocca brucia con Marilyn Monroe a Harry il Tonto di Mazursky, Danton di Vaida. C'è anche Paulina la spiaggia di Eric Rohmer il 17 marzo del 2020, che è una data non casuale, perché nel 2020 ricorre peraltro il centenario della nascita di Rohmer, sarebbe esattamente il 21 marzo, quindi è un po' un omaggio, insomma, con uno dei suoi titoli peraltro più leggeri e più amati della serie Commedie e Proverbi. Un altro titolo che mi interessa sottolineare e che penso possa interessare moltissimo anche al pubblico, non solo di cinefili, è Michael di Dreyer.